due studi sull'isteria. Experience, Marco Logo featuring Mala. Big up Panti G, ti butti giù, ti buttiamo giù. FDS il team e il click, fanculo bitch. Tu lo sai che non mi frega niente ultimamente. Me ne vado via, intendo di testa e non ritorno. Mi cacciano il sonno questi studi sull'isteria. Tu lo sai che non mi frega niente ultimamente. Me ne vado via, intendo di testa e non ritorno. Mi cacciano il sonno questi studi sull'isteria. Un crocifisso al rovescio, riflesso negli occhi. Filtro attitudini black, matrice death, parlo coi morti. Diabolico, ti mando fuori come se alzi il tasso alcolico. In testa un livido amniotico, non c'è nessuna qui realmente importi di me. Sono infelice, insoddisfatto e so io il perché. Per ogni volta che ho fatto la scelta sbagliata, ho dato un nome ad una stella che è precipitata. Sono l'incarnazione della ribellione all'autorità, l'indignazione su ogni faccia di questa città. Metti sto disco a tua madre, gli piglia un infarto. Sta così male che ricorda i dolori del parto. Tu c'è un'impresa di famiglia, una famiglia che è un'impresa. Caro pubblico ufficiale, ufficiale è l'offesa. Scavo una buca in giardino per te e farò in modo che nessuno si ricordi di te. Tu lo sai che non mi frega niente ultimamente. Me ne vado via, intendo di testa e non ritorno. Mi cacciano il sonno questi studi sull'isteria. Tu lo sai che non mi frega niente ultimamente. Me ne vado via, intendo di testa e non ritorno. Mi cacciano il sonno questi studi sull'isteria. Tu lo sai benissimo che la vita ti illude. Tutte le porte te le chiude e tu ti butti giù, giù. Tu lo sai benissimo che la vita ti illude. Tutte le porte te le chiude e tu ti butti giù. Tu lo sai benissimo che la vita ti illude. Tutte le porte te le chiude e tu ti butti giù. Tu lo sai benissimo che la vita ti illude. Tutte le porte te le chiude e tu ti butti giù. Io sono pazzo e che farci, vivo la giornata, ho la testa bruciata. Mi confondo tra i pagliacci e non è una novità. Se in città tutti li vedi spenti, ognuno c'ha i suoi cazzi e sorrisi. Da me non te ne aspettare, che se vuoi volti sorridenti va a cercare da un'altra parte. E sì che sono preso male, ma non c'è nulla di personale. Se mi parli ti sembro distante. Tu lo sai che non mi frega niente ultimamente. Me ne vado via, intendo di testa e non ritorno. Mi cacciano il sonno questi studi sull'isteria. Tu lo sai che non mi frega niente ultimamente. Me ne vado via, intendo di testa e non ritorno. Mi cacciano il sonno questi studi sull'isteria. Tu lo sai benissimo che la vita ti illude. Tutte le porte te le chiude e tu ti butti giù, giù. Tu lo sai benissimo che la vita ti illude. Tutte le porte te le chiude e tu ti butti giù. Tu lo sai benissimo che la vita ti illude. Tutte le porte te le chiude e tu ti butti giù. Tu lo sai benissimo che la vita ti illude. Tutte le porte te le chiude e tu ti butti giù. Io vedo solo me. Psicopatico, nah. Sociopatico, apatico. Io voglio un attico, due bionde sexy con due pezzi slacciato, sì. Fare un viaggio nel tempo, nel passato. Alcolizzarmi coi poeti maledetti a Parigi, yeah. Farmi gli amici, farmi le tipe del Moulin Rouge. Non farmi viaggi mistici che poi torno in me stesso e mi butto giù, giù, giù, giù. Tu lo sai che non mi frega niente ultimamente. Me ne vado via, intendo di testa e non ritorno. Mi cacciano il sonno questi studi sull'isteria. Tu lo sai che non mi frega niente ultimamente. Me ne vado via, intendo di testa e non ritorno. Mi cacciano il sonno questi studi sull'isteria. Per il 2009 Marco Log Malanova. Big up Panti G. Alla casa.